GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Codroipo gli 80 anni di Confartigianato Imprese, tra Pordenone e Udine oltre 20.000 attività operative. Consegna qualche dose di droga ai finanzieri di Pordenone, ma a casa ne aveva molta di più. Arrestato. Uno smottamento porta alla chiusura della strada tra Attimis e Porzus, ma il borgo non è isolato. Basket Trieste vince con Virtus Bologna in A2, nuova sconfitta per Cividale contro Torino. Oggi tocca Udine. 12, 15 minuti 45 secondi, buona domenica da Lara Zani e Rita Micoli. Apriamo questa breve edizione domenicale del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia, parlando di presente e futuro dell'artigianato. Confartigianato Imprese, Udine e Pordenone celebrano l'80° anniversario della fondazione a Codroipo. Durante la cerimonia, riconoscimento a una trentina di imprese a meriti distintivi nel settore dell'artigianato, poi il premio Donne Impresa all'Associazione Le Donne Resistenti. Fra gli ospiti Vania Gava, vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nelle loro mani il futuro delle imprese, grandi e piccole. Gli artigiani celebrano 80 anni di unione in Friuli, associazione nata nel 1945, diventando poi Confartigianato Udine e Confartigianato Pordenone. A Codroipo i due presidenti, Graziano Tilatti e Silvano Pascolo, hanno sottolineato come l'artigianato è stato ed è un formidabile motore economico, una fucina di talenti, l'habitat ideale per sperimentare l'imprenditoria e formare imprenditori. Ma ci sono anche le criticità, come la burocrazia a creare ostacoli all'impresa e poi attenzione a come la digitalizzazione dei processi nelle realtà micro e l'utilizzo di tutta la tecnologia presente in ogni settore devono far parte della mentalità di ogni azienda del territorio. Alla fine del 2024 erano 20.622 le imprese artigiane attive registrate dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine, 7.433 nel capoluogo del Friuli Occidentale e 13.257 invece a Udine. Il peso dell'artigianato è pari al 32% delle imprese totali e sale al 38% considerando soltanto le aziende extra agricole. Guardando ai settori, le costruzioni rappresentano più del 37% a Pordenone e il 38% a Udine, mentre la manifattura si attesta al 21% nei due territori. Addetti nelle imprese artigiane a quota 50.479, oltre il 12% degli addetti di tutto il Friuli, un valore aggiunto che supera i 2 miliardi e 250 milioni di euro. Codroipo, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La finanza di Pordenone ha arrestato uno spacciatore italiano e gli ha sequestrato oltre 40 grammi di stupefacenti tra cocaina, hashish, marijuana e MDMA, oltre a quasi 10.000 euro in contanti ritenuti frutto dello spaccio. Quando hanno fermato la sua auto, il giovane ha subito ammesso con i finanzieri di avere con sé 5 dosi di cocaina e una di marijuana, che ha consegnato ai militari che però, insospettiti dalla solerzia e dal nervosismo dell'uomo, hanno perquisito la sua abitazione in provincia di Venezia, trovando altro stupefacente tra cui 40 dosi di cocaina, circa 3 grammi tra hashish e marijuana e 6 pasticche, oltre al contante. Ancora cronaca, la strada che da Attimis porta a Porzus è stata chiusa alle 10:30 di questa mattina in seguito a una frana. Sul posto sono intervenuti il distaccamento dei vigili del fuoco di Cividale e la protezione civile. In attesa del ripristino della circolazione, Porzus è restata comunque sempre raggiungibile attraverso la viabilità alternativa. E ora uno sguardo al tempo, cielo da coperto a nuvoloso sulla regione, queste le temperature delle ore 11. A Trieste e Pordenone 15,5 gradi, a Gorizia 15 gradi, a Udine 13,5, a Tolmezzo 11,5 gradi, a Forni di Sopra 11, a Piancavallo 7,5 gradi, a Tarvisio 5,5, a Sappada 1 grado. Sul Monte Zoncolan 2 gradi, sul Monte Lussari 0, a Lignano 13,5 gradi, a Grado 13. Le previsioni dell'ARPA nel pomeriggio: cielo in genere variabile con schiarite più probabili su pianura e costa, ma saranno possibili anche locali rovesci. Centinaia le persone che anche questa mattina si sono messe in fila a Trieste per visitare i luoghi del FAI aperti in via straordinaria al grande pubblico per le giornate di primavera. Nel capoluogo giuliano visitabili il Palazzo del Lloyd, sede della Giunta regionale, Villa Necker e la sede del MIB. La pioggia questa mattina ha risparmiato i visitatori che fin dalle prime ore si sono messi in fila davanti ai tre siti architettonici aperti al pubblico in via esclusiva a Trieste nella seconda delle due giornate di primavera del FAI. Lunghe code si sono formate per visitare il Palazzo dell'Oide in Piazza Unità d'Italia, sede della Giunta regionale, Villa Necker, la residenza del console svizzero Teodoro De Necker nella prima metà dell'Ottocento e oggi sede del Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia, e il Palazzo Ferdinandeo, che ospita il MIB Trieste School of Management, tutti resi accessibili anche grazie al lavoro dei volontari del FAI e ai piccoli ciceroni, ragazzi e ragazze delle scuole triestine che si sono resi disponibili in questo fine settimana ad accogliere e guidare il pubblico alla scoperta di questi luoghi segreti. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Teatro Verdi di Pordenone, tutto esaurito ieri sera per il pianista iraniano Rabin Bahrami. A lui è stata affidata la chiusura della 31esima edizione del Festival Dedica, quest'anno incentrato sullo scrittore olandese-iraniano Kader Abdollah. Per Bahrami un concerto che ha creato un ponte musicale tra Oriente e Occidente, intrecciando Bach, Mozart, Chopin, Bartok e Rohani. Dedica si conferma punto di riferimento internazionale per la letteratura, con un bilancio quest'anno di oltre 7.000 presenze. E ora alcuni appuntamenti. Concerto di primavera proposto dalla Filarmonica San Vitese con gli allievi del Conservatorio di Vicenza. A San Vito al Tagliamento, Teatro Arrigoni alle 16. Il mio nome è Eddie. Alle 17.30 all'Auditorium Concordia di Pordenone lo spettacolo ricorda l'agente mugesano Eddie Cosina, morto nella strage di Via D'Amelio. All'immaginario scientifico di Pordenone, equilibri e giravolte alla scoperta del momento angolare alle 16. Rinviata data da destinarsi lo spettacolo cabaret Zelovets Klagenfurt, previsto alle 17 al Kulturnedom di Gorizia. L'Armonia presenta la compagnia Noi della Frasca con I Love You Johnny a Staranzano, sala Pio X alle 16, e Tutto può succedere con la compagnia ex allievi del Toti al Verdi di Muggia alle 17.30. Ora allo sport, il basket, la pallacanestro Trieste ieri sera si è imposta su Virtus Bologna per 85-78. Trieste si ritrova dopo la batosta di Trapani, arriva la quinta vittoria consecutiva in casa, vittima la nobile decaduta Virtus Bologna, collezione da museo d'antiquariato mal assemblata che non brilla in campionato ma che tuttavia pur arrancando gioca l'Eurolega. E infatti nonostante un Cordinier che con i falli in serie chiarisce che avrebbe fatto volentieri turnover, la squadra dell'istrionico Ivanovic va avanti. Inserire di nuovo Valentine nelle rotazioni per i biancorossi non è semplice e così gli ospiti si portano sul più 11 con gli isolamenti di Clyburn e Schengen Gaila, che sfruttano in maniera monocorde il loro fisico per creare vantaggio. A spezzare la monotonia prima del riposo è proprio il rientrante Valentine, che riduce lo scarto nel finale di tempo. Nella ripresa la squadra di Christian ritrova le sue certezze. Brown sorpassa sul 46-45, mentre le Vunere sbagliano una collezione di tiri aperti tutti uguali e continuano ad appoggiarsi soltanto al duo straniero. Spinti dai 6.000 del Palatrieste, i biancorossi possono volare. McDermott e ancora Valentine fanno meno 1 a 10 minuti dalla fine e l'11-0 di parziale che ne segue fa mettere la freccia del sorpasso con due triple di fila di Ruzier. Le Vunere non ci sono più, Brooks, Yutov e Valentine la chiudono con largo anticipo, con l'italo-americano che nel finale sembra ancora il più pimpante nonostante le 36 primavere. 85-78, 18 i punti per Brown, il più continuo anche in difesa. In classifica sesto posto e temporaneo meno 4 dalla vetta e più 4 di margine sul limite inferiore della zona playoff. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. In A2 questo pomeriggio alle 18 l'APU Old Wild West Udine giocherà sul parquet di Cremona. Ieri sera invece nuovo passo falso per Cividale, sconfitta da Torino per 56-54. Un crollo quasi inevitabile alla quarta partita in 8 giorni. Cividale cade di nuovo in casa e mette a rischio la partecipazione ai playoff diretti, scivolando addirittura in 8ª posizione. Al Palagestec, in una partita dagli scarsi contenuti tecnici e complessivamente con 80 tiri sbagliati, passa Torino. Non basta per Pillastrini aver recuperato tutti i giocatori. Fin dall'inizio si segna con il contagocce, con Anumbe e Rota che portano a 7 il vantaggio dei ducali, immediatamente ridotti a 4 da Gallo sul finire del primo quarto. Il secondo periodo di rara bruttezza, Costa Ajay pareggia a quota 23 e sono già passati più di 15 minuti e il canestro di Redivo fissa il primo tempo sul 29-25. Chi si aspetta un po' di fuochi d'artificio nella ripresa è deluso, si segna ancora meno. I piemontesi vengono da un ottimo momento e da un po' di riposo, ma non si vede. Brutte conclusioni in serie, anche se si portano avanti con la tripla di Taylor che chiude il terzo periodo. Le Eagles sono in riserva da un po' e l'ultimo quarto è un film già visto. Azioni lunghe e macchinose, ancora l'americano della Reale Mutua fa più 5 a 3 minuti dalla fine. Lamb si inventa almeno 2, ci sarebbe spazio per uno scatto di Reni, solo che la Durner è lasciato solo sull'assist di schina e allora servirebbe un miracolo. Dopo un canestro di Miani e un errore del play triestino, Cividale ha la palla per vincere. Come da copione finisce Redivo, che ciucco di fatica forza la conclusione da 3 punti perché il supplementare sarebbe un supplizio che gli stessi tifosi al palazzo non meritano. Non va, 54-56 e terza sconfitta di fila per i Ducali. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Rugby al Gerli di Via del Maglio Udine per la 12ª giornata del campionato di Serie B. Udine Rugby contro Rugby Milano alle 14.30. Oggi Porcia ospiterà il campionato regionale di scacchi blitz con oltre 50 giocatori dalle 4 province della nostra regione. Ogni partita durerà 5 minuti a giocatore, mettendo alla prova rapidità di analisi e gestione del tempo. L'evento, patrocinato dal comune, si svolgerà nella barchessa di Villa Correr Dolfin, nella frazione di Rorai Piccolo, con inizio alle 14.30. In regia Paolo Cassano e Viola Romanese, in redazione ha collaborato Caterina Polselli, dalla Razzani e Rita Micoli. Ancora l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.